Bueno, pues estamos hoy en Vórtices, adelantadas un día, bueno, varios días, estamos grabando, como siempre que hacemos trampillas. Y hoy nos vamos hasta Sicilia, vamos a dedicar el grueso del programa de hoy, la entrevista, a luchas de la tierra, luchas antimilitaristas, en este caso, eso, como os decía, en Sicilia, en el caso de No Mouse. Tenemos por Skype al otro lado del ordenador al compañero Fabrizio de Sicilia, que nos va un poco a explicar mejor de qué se trata el MOS, de qué se trata el movimiento No MOS en contra de estas bases militares. Y bueno, os pido paciencia hoy porque vamos a ir con un traductor incorporado al programa, ya que pasamos del italiano al español. Bueno, pues en primer lugar, bienvenido Fabrizio. Un saludo Fabrizio, bienvenido. Gracias, un saludo anche a voi. Grazie dell'intervista, insomma. Agradece la oportunidad de estar aquí hablando en la radio. Bueno, pues eso, en primer lugar, si te quieres presentar y contarnos ya de entrada qué es el MOS. Partiamo quindi dalla presentazione. Se ci vuoi raccontare un po' a grandi tratti cos'è il MOS, il progetto. Sì, allora, intanto da dire che mi presento, sono Fabrizio, sono un attivista No MOS e in questo momento, avendo l'occasione di stare fuori, assieme ad altri ragazzi No MOS, un piccolo tour in Portogallo e poi andrò la settimana prossima in Spagna. Quindi stiamo cercando sostanzialmente di espandere questa lotta e invitare le persone per il campeggio estivo che ci sarà in agosto. In grandi linee il MOS è un sistema di comunicazioni satellitare che sostanzialmente gli Stati Uniti d'America stanno mettendo su in tutto il mondo, e una base si trova in costruzione in Sicilia, in Italia. Insomma, è un sistema che servirà sia alle comunicazioni militari, ma sarà molto più di quello che è già attivo, perché comanderà con molta più facilità tutti, diciamo, i sistemi che di ultima generazione militare, come droni, sottomarini, nucleari, ma anche tutte le comunicazioni anche civili saranno entro un certo raggio sotto il controllo della Marina Militare Americana. Pues Fabrizio se presenta, es un activista No MOS. En esos días está él y otros compañeros del movimiento No MOS dando una vuelta por Europa, promocionando una acampada que tendrá lugar ese verano, en agosto, en Niscemi, el pueblo de donde se está llevando a cabo esa protesta popular. El MOS es un proyecto estadounidense que sale del gobierno estadounidense de implantar a escala global un sistema de transmisión satelital y en Sicilia, en Niscemi, en ese pueblo italiano, pues se plantea instalar uno de los principales nudos de ese sistema. Es un sistema de comunicación satelital de cara principalmente militar, para permitir la comunicación entre aviones, drones, submarinos y demás aparatos militares, pero a la vez el gobierno estadounidense plantea su uso para fines civiles, evidentemente para comunicaciones reservadas y de cierto nivel. Bueno, y lo más importante de cuando habéis comentado el tema de drones y de movimientos civiles, a mí me llama la atención el hecho de los drones en sí, ¿no? Que para contextualizar para la audiencia, explicar lo que es, son aviones que no necesitan pilotos, sino que están monitorizados desde un ordenador. Y a mí esto me hace preguntarme sobre la ciberguerra, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad está planteando o se plantea desde la construcción de este tipo de bases, si eso va a repercutir en un proyecto mayor de modo militar, ¿no? De una construcción militar, porque en realidad estamos ante tres bases, o sea, otras tres bases que se están construyendo. Si nos podía explicar un poco qué es esto de la ciberguerra y las otras bases que existen de drones también, o de MOUS. Volevamo un'opinione un pochettino più generale su tutto il sistema, MOUS, nel senso che, da quanto capiamo, il sistema MOUS principalmente si infuoca alla comunicazione tra droni, tra aerei senza comandante. Sappiamo che ci sono altre basi in costruzione negli Stati Uniti, altri nodi, e volevamo un commento un po' sul tipo di idea, diciamo, che sta alla base, su qual è la necessità finale per cui si sta portando avanti questo progetto, che tipo di idea geopolitica c'è dietro. Sì. Allora, benissimo, il MOUS intanto è un progetto che andrà, secondo i loro piani, andrà a concludersi con poi il lancio in orbita dei satelliti nel 2015. Sono quattro basi, e le altre tre sono già pronte, manca soltanto quella in Sicilia, quindi non, è un sistema che è fondamentalmente già quasi pronto all'uso, e sarà molto utile agli americani, perché consentirà una rapidità nelle operazioni militari che fino adesso non hanno, e lascerà spazio proprio, diciamo, quello che la domanda secondo me è importante, perché lascia spazio a un altro tipo di guerra a cui non siamo, secondo me, abituati, che è una guerra in cui tutti i mezzi non sono più necessariamente comandati direttamente da persone, ma sarà una guerra, diciamo, paragonabile a come si gioca a un videogioco. I droni, che sono questi aerei senza piloti, vengono comandati con un semplice telecomando dalla base, quindi senza nessuna possibilità nessun problema con di leva militare, ma anzi verranno molto facilitate le operazioni militari di guerra. E questo, diciamo, con la situazione geopolitica che si sta creando, per cui, diciamo, gli americani hanno sempre più bisogno in questo momento di mettere, diciamo, un punto di forza nel quadro globale, è fondamentale per loro, perché devono stare pronti a essere ancora la maggiore potenza. Perfecto. Pues, a ver, el MOUS es el proyecto. Es un proyecto ya que está en una fase bastante avanzada. De hecho, el gobierno estadounidense prevé por 2015 lanzar en órbita los satélites que acabarían con la infraestructura, que sería la última pieza de la infraestructura de ese proyecto. Y entonces el gobierno estadounidense, pues, plantea que para el 2015 ese sistema sea ya efectivo y operativo. De las cuatro bases que componen el proyecto, tres ya están listas, solo falta el nudo de Sicilia. Digamos, el objetivo que se pone el gobierno de Estados Unidos es, pues, mejorar la rapidez, aumentar su rapidez en las operaciones militares, en la posibilidad de intervención militares a lo largo de todo el mundo, que por ahora no tienen, o sea, que una rapidez que por ahora no tienen tan a un nivel tan alto. Y el escenario que plantea ese tipo de proyecto, pues, es el de la ciberguerra, donde ya no harán falta militares que tengan que estar en la línea del frente o al mando de aviones o de otros tipos de aparatos militares, sino que todos esos sistemas son teleguiados, y, pues, como se juega, como podrías jugar a un videojuego, el militar de turno, desde su oficina, pues, controlará su dron y con el resultado de bypassar, pues, todos los problemas más humanos que tienen a que ver con la guerra. Y todo eso, pues, se enmarca en la necesidad de Estados Unidos en los últimos años de, pues, como reafirmar su rol geopolítico internacional, ya que otras potencias, pues, están ahí dando cañas y Estados Unidos no quiere ceder. Aparte de esta cuestión de la actividad militar, ¿no? Que es bastante obvio y evidente la relación que está presionando, ¿no? Estados Unidos para tener una fuerza militar y un control hegemónico de lo que ocurre en el resto de en el resto del mundo, ya no es solo una cuestión de Occidente o Oriente, ¿no? Sino que está demostrando que con estas bases quiere hacer un control tecnológico y militar completo del mundo, ¿no? Pero bueno, aparte de esta cuestión que nos haría estar en contra de este tipo de bases, quería preguntarle qué otras consecuencias tiene la construcción de la base militar de Sicilia o las bases del MOUS, ¿no? ¿Qué cuestiones tienen en cuanto a la salud de usar unas antenas a este nivel de electrodos o como sea que funcionen, que no me dan mucha confianza, así nada más saberlo? ¿Y qué consecuencias tienen también para la población en sí, donde se sitúe este tipo de bases? Pasando a un nivel, diciamo, un poco. Sì, benissimo. Allora, una base del genere sorge in realtà in Sicilia dentro un'altra già base che è stata già implementata dagli Stati Uniti con 41, quindi saranno un'aggiunta di 3 macro antenne a una già esistente. Questo da un punto di vista di salute è una parte fondamentale della lotta, perché già le popolazioni locali soffrono di un aumento esponenziale dei tumori e altre malattie, e quindi quando già provate, quando hanno saputo della costruzione di questa nuova base, è nato, soprattutto inizialmente per motivazioni di salute, questo movimento di opposizione. Ma diciamo che non è solo questo, perché la cosa che insomma fa, da un certo punto di vista è triste, dall'altro sembra quasi divertente, è che stanno cercando di fare una cosa più sporca possibile, nel senso che addirittura questa base sorge dentro una riserva naturale, quindi hanno praticamente distrutto una riserva naturale che in teoria è un sito in cui non si può nemmeno costruire una casa, e loro ci stanno costruendo un sistema di comunicazione satellitare che ha un raggio molto ampio e va a influenzare sulla salute, sulle coltivazioni che ci sono vicine e ovviamente su tutto il sistema che vi è intorno. Per quanto riguarda poi il discorso dei posti di lavoro, è un po' più complesso, perché poi lì magari parliamo un po' meglio del rapporto che c'è tra gli americani, la mafia e il lavoro in Sicilia. Ok, pues esa base de MOUS se plantea dentro otra base militar ya existente, ya operativa, una base estadounidense. Y de hecho, eso fue un poco el causante, por lo menos del principio, lo que hizo que unas protestas populares pudieran tener éxito y bombo, en el sentido que cuando la población local se enteró que, además que la antena de transmisiones satelitales ya existente, se iban a instalar otras 3 macroantenas aún más potentes y con efectos potencialmente aún más dañinos, pues eso fue un poco el casus belli que empezó el movimiento. Ya se registran en el área pues un aumento exponencial de cánceres y otras enfermedades ligadas a ese tipo de tecnologías. y además que todo eso, lo que Fabrizio señala como triste y divertido, casi un humor un poco negro a la vez, es que ese proyecto se plantea instalar, esa base se plantea instalar dentro de una reserva natural, donde supuestamente no se pueden construir ni viviendas, ni casas, ni ningún tipo de edificio, mientras ya vemos cómo se da mano libre a otros tipos de proyectos que interesan. Y evidentemente pues hay repercusiones e influencias en, además que en la salud de las personas, de las poblaciones que viven alrededor, también en las cultivaciones y en todo el entorno medioambiental De la zona. De la zona. Bien, pues bueno, la verdad es que esto aclara mi pregunta siguiente, que era también preguntarle si la diferencia, ¿no?, que había porque con las otras estaciones, porque las otras, bueno, no habíamos comentado, están en Australia, Hawái y Virginia, pero el caso de Sicilia era aún más preocupante precisamente por estos datos, ¿no?, que se supone que a 120 kilómetros a la redonda de las bases militares no puede haber población porque le afecta la radiación. En este caso, por lo que tengo entendido, sí que hay población cerca. Además, bueno, pues ya como hemos escuchado al compañero decir, que afecta a la economía local, afecta a la salud local y bueno, toda la cuestión militar que tiene detrás. A mí me hace preguntarle que, bueno, aparte del Pentágono, que esté detrás con el interés de sacar adelante este proyecto, también debe haber unos intereses económicos y políticos, ¿no?, tras todo esto, porque no es solo una cuestión militar de que el gobierno estadounidense decida hacer eso, sino que tiene que haber algún tipo de interés detrás para que en Sicilia y en Italia se acepte sacar adelante este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? E venendo quindi al lato politico di così grande portata, un progetto che prevede che nei 120 km di raggio tutto attorno alla base non possano vivere popolazioni, quali sono gli interessi politici e economici? Allora, in verità dal punto di vista politico non c'è un grande interesse, nel senso che si va semplicemente a perpetuarsi un sistema di sudditanza che ha avuto l'Italia sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al governo degli Stati Uniti, per cui è sempre stata, diciamo, tenuta sotto le mani del governo degli Stati Uniti, il governo nazionale italiano e anche quello regionale, ma diciamo che il discorso è un po' differente dal punto di vista regionale, perché qui rientriamo in un discorso piuttosto storico, per cui dobbiamo ricordare che la fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia avviene anche grazie allo sbarco degli americani in Italia, specificamente in Sicilia. Questo è un avvenimento che non è casuale ed è dovuto ai rapporti che gli americani avevano con la mafia siciliana. Da quel momento in poi c'è un accordo tacito, anzi non, che non è poi tanto diciamo segreto, perché è palese, per cui da quel momento gli americani hanno avuto via libera in Sicilia di più, ma anche in Italia, e la mafia ha potuto mantenere più o meno il controllo della gestione dell'economia e diciamo poi dell'aspetto anche politico, dell'influenza politica in Sicilia. Bien, pues bajo el punto de vista más estrictamente político, pues parece que la aceptación de ese proyecto, de instalar ese proyecto, simplemente pues viene a reproducir la relación de desigual que siempre se ha dado entre Italia y Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y desde la aplicación del Plan Marshall y demás. Eso vale evidentemente a nivel nacional, mientras que a nivel regional, además que ese punto, por subrayar, pues hay una cuestión más concreta, más histórica, y es que el desembarque, Italia fue liberada del fascismo también gracias a la ayuda estadounidense, y el desembarque de las tropas estadounidenses tuvo lugar en Sicilia, y no fue casual, sino que fue debido al hecho que el gobierno estadounidense y la mafia local pues tenía relaciones y contactos desde hace tiempo. Y con el éxito, digamos, de la operación militar que liberó Italia, pues el gobierno italiano-estadounidense y los diferentes poderes por ese lado y por el otro del Océano Atlántico, pues se quedaron con un acuerdo que simplemente pues deja a Estados Unidos manos libres para cumplir sus proyectos y para asegurar su área de influencia en Italia, y pues deja a la mafia pues manos libres para seguir siendo el poder de referencia en el área, en Sicilia. Y bueno, a nivel entonces de la actualidad, podemos, me sigo preguntando si es quizá la mafia de nuevo la que está metiendo mano en este asunto y es quien se ve interesada, si alguna empresa relacionada con la mafia, como nos comentaba Fabricio, o en la información que se puede leer en contrainfo.spinoff, actualmente que está traducida ya al castellano, que se habla de unas cementeras que en el pasado hicieron acuerdos con los militares en Sicilia o diferentes empresas en relación con la mafia, si esta vez tienen relación con este acuerdo. Si vede quindi a livello concreto che ci sono imprese legate a alla mafia che si stanno spartendo la torta, che stanno con le mani in pasta nel progetto, ci puoi fare qualche esempio, ci puoi raccontare di se effettivamente sta avendo luogo questa sinergia tra mafia e istituzioni pubbliche di cui purtroppo conosciamo bene le dinamiche? Sì, no, si svolge palesemente, nel senso che ormai in Italia purtroppo è una cosa che vediamo abbastanza diffusa, è un esempio ancora, diciamo, anche più eclatante, forse più famoso del movimento Nomos è quello della TAV, ma in Sicilia è palese, nel senso che le due imprese che stanno lavorando alla costruzione sono due imprese gestite da famiglie mafiose, quindi sostanzialmente c'è una linea diretta tra la costruzione della base americana e un guadagno per la mafia. Questo però non ci deve, diciamo, fare confondere, perché il discorso della mafia è abbastanza complicato per quanto riguarda la Sicilia. Infatti il movimento Nomos ha dovuto anche rapportarsi non solo diciamo, all'apparato statale, ma alla mafia. È stata fatta una specificazione contro un boss locale mafioso, e all'indomani di questa azione c'è stato un vero e proprio colloquio tra il movimento e degli esponenti, appunto, di famiglie mafiose coinvolte nella costruzione, che hanno palesemente detto, diciamo, che queste famiglie mafiose hanno già dagli Stati Uniti e dal governo italiano ricevuto tutto il denaro che diciamo, gli accordi prevedevano, e che quindi in questo momento non hanno un particolare interesse al fatto che si faccia o non si faccia la costruzione alla fine, perché già diciamo, la mafia ha ricevuto il denaro che gli hanno offerto gli Stati Uniti, e in questo momento si è tirata un attimo fuori dai giochi. Perfetto. Pues sí, otra vez pues vemos como por el caso de la TAV, del tren de alta velocidad, que las empresas ligadas a la mafia buscan y encuentran finalmente las sinergias con el Estado cuando hay que repartir el pastel. En el caso del MOUS, las empresas constructoras, las que llevarían a cabo toda la construcción de los edificios donde se instalarían las antenas, pues es sabido, es muy conocido que están ligadas cada uno a dos familias mafiosas muy, muy, muy importantes, muy importantes de Sicilia. Y eso, claro, pues hace el juego mucho más difícil, porque el movimiento No Mouse no solo ha tenido que enfrentarse con el Estado, que es quien supuestamente pues está llevando el proyecto, sino que también ha tenido que enfrentarse con los caciques locales de las mafias locales. En concreto, pues el movimiento llevó a cabo una acción contra un cacique mafioso local del área, y a los dos días la familia de ese, cuando decimos familia decimos la organización mafiosa subyacente a ese cacique, encontró una pequeña delegación del movimiento y informó al movimiento que ellos, esa familia mafiosa, ya había ya había obtenido todo el dinero que, que se le había prometido por parte de Estados Unidos, y que entonces ya no le interesaba llevar a cabo el proyecto, porque ya habían satisfecho pues su necesidad, la de dinero. Bueno, es que sí, la verdad es que esta te deja un poco así, ¿no? Te iba a preguntar también por las universidades y distintas instituciones públicas que se veían recompensadas por este tema, pero si queréis lo dejamos un poco más para adelante, porque me interesa también que ya que te tenemos aquí, nos hables de la resistencia del NOMOS, que las acciones que se han llevado a cabo. Para empezar, primero háblanos de qué es la plataforma NOMOS y cómo se organiza. Okay. Bien, te veníamos un poco al tema, si ci puoi raccontare un po' come nasce, come si organizza, come si sviluppa la piattaforma NOMOS, se ci puoi raccontare un po' dal dentro, diciamo, che tipo di persone hanno partecipato nel movimento, che tipo di azioni sono state fatte e che tipo di... insomma, sì. Vai, ruota sì. Libera, vai. Ok, no, allora, il movimento in realtà nasce già da un paio di anni. Ma è come dicevo da quel discorso della salute prima di tutto nel locale, poi però grazie a da un certo punto di vista all'inizio di questi lavori effettivamente e all'acquisto da parte degli attivisti NOMOS di un terreno vicino alla base è stato possibile creare un presidio lì che facesse da cassa di risonanza e che organizzasse tutto il movimento. Il movimento, diciamo, che è in continua evoluzione, non è facile descriverlo ed è composto da realtà molto molto diverse, diciamo che è pieno di un po' di tutto. E questo, per esempio, è importante dirlo, è stato uno dei problemi iniziali, perché ovviamente contenendo persone che fanno riferimento a aree che possono andare da quelle più anarchiche alle più socialdemocratiche, è difficile mettere insieme le componenti e fare sì che il movimento abbia un aspetto unitario e faccia azioni più o meno unitarie. All'inizio il problema è stato anche che i neofascisti, vedendo questo grande movimento, hanno cercato di cogliere la palla per inserirsi dentro la lotta al MUOS, e questo non è stato un problema di facile risoluzione, ma che il movimento ha saputo però risolvere con un sistema molto semplice, che è stato creare una carta di intenti del movimento in cui si manifestasse palesemente l'antifascismo come valore del movimento, e quindi il fatto che chiunque facesse capo a riferimenti fascisti del passato non sia ben accetto all'interno del movimento. Non so se conviene dividerla, la vuoi tradurre? Sì, comincio a tradurre, sì. Pues el movimiento NOMOS nace hace un par de años, desprendiendo por el discurso de la salud ante todo, lo que decíamos antes. Desde allí, algunos activistas deciden dar un paso comprando unos pedazos de terreno, o sea, de campo, alrededor del área donde se plantea instalar la base. Y gracias a eso, pues se crea como un espacio físico de donde se pudieran pues organizar y llevar a cabo las protestas. El movimiento siempre ha tenido un carácter bastante transversal. En el movimiento se han encontrado almas muy diferentes, de diferentes opciones e ideologías políticas, que Fabrizio describe hablando de un abanico desde anarquistas hasta socialdemócratas. Y evidentemente eso, al principio, ha sido pues un límite en el sentido que era muy difícil pues encontrar la unidad, tanto a la hora de los planteamientos más teóricos cuanto a la hora de la práctica, a la hora de las acciones. les venía muy difícil encontrar la unidad necesaria. Además, unos grupos neofascistas vieron la oportunidad representada por ese movimiento popular y, como siempre o como muchas veces por lo menos en Italia suelen hacer, intentaron infiltrarse y pues llevar activistas dentro de la plataforma No Mouse. Y evidentemente pues eso fue otro tema bastante espinoso, pero que se resolvió bastante ágilmente creando pues una carta de intentos donde pues explicitaba muy claramente que el antifascismo era uno de los valores básicos y de referencia del movimiento, y eso hizo que naturalmente los fachas se piraran. En relación a eso, a cómo se está organizando la plataforma No Mouse, me preguntaba, de acuerdo a eso, con movimientos similares, como puede ser la lucha contra el TAP, contra el tren de alta velocidad, tanto en Italia como con el caso del País Vasco en el Estado español, y otros movimientos, ¿no?, por la tierra, que suelen surgir por esta preocupación local por lo que está ocurriendo en su zona, a pesar de que también hay ese interés en que no ocurra ni aquí ni en ningún sitio, como dice el eslogan. Me preguntaba si este movimiento cuenta con base, en el sentido de que llega a la población local y es la propia gente la que quizás se comienza a organizar de manera asamblearia, haciendo, no sé, asambleas locales, o cómo es estar, si se ha creado una red, ¿no?, entre distintas ciudades, o es algo que solo surge de una manera local. La idea è quella che vediamo che negli ultimi movimenti di protesta che hanno a che vedere con la questione della terra, con la questione del rispetto del proprio territorio dove si vive, vediamo che per la prima volta si danno delle mobilitazioni trasversali dove sono i propri cittadini che si ritrovano, e attraverso l'assemblearismo, sostanzialmente attraverso questo incontro a partire della difesa della propria terra, creano un'organizzazione politica. Effettivamente si è dato questo è un modello, diciamo, nel caso del No Mouse c'è stata questa mobilizzazione genuinamente popolare, come le dinamiche di presa di decisione, come avvengono? Ok, inizio dalla fine, nel senso che voglio sottolineare che è una cosa importantissima, che le decisioni sono prese tutte in maniera assembleare, il movimento è orizzontale, quindi non c'è nessun tipo di struttura verticale all'interno del movimento. Dicevo prima che è stato comprato questo accampamento, questo terreno, ecco, lì è il fulcro del movimento, ovvero tutte le assemblee vengono fatte dentro questo terreno, e le assemblee sono composte così: ci sono dei comitati locali, cioè dei comitati che sono cittadini o per ogni paese, che si stanno diffondendo in quasi tutte le città della Sicilia e adesso anche in molte città dell'Italia, e ogni comitato, diciamo, fa un lavoro nella propria città, e poi c'è ogni due settimane una assemblea di tutti i comitati in questo presidio, in questo campo. È importante dire però che, come purtroppo siamo abituati, diciamo, in tutte le lotte c'è stato e probabilmente ci sarà anche in futuro il tentativo di rappresentanti politici o di particolari sindacati di cercare di ottenere un po' il comando del movimento, cercando di influenzarlo e cercando di dirigerlo. In questo sentito gioca un ruolo importante. Giocano un ruolo importante i compagni che devono cercare di far mantenere, diciamo, la struttura assembleare solida, e devono, diciamo, sempre mantenere un occhio vigile sull'influenza che possono avere grandi partiti o grandi sindacati su movimenti come questi, che cercano, insomma, di un po' di sfruttarli. I cittadini hanno preso e prendono parte attiva, costante, non solo al presidio, ma alle assemblee. È anche vero che comunque la Sicilia non ha una storia, diciamo, di movimento politico molto forte e di cultura politica molto forte, e quindi è un processo tutto in divenire, ma che sicuramente è un processo che avviene dal basso e non dall'alto. Perfetto. A ver, Fabrizio, quiero empezar subrayando y absolutamente que todas las decisiones se toman de manera asamblearia y horizontal. No existe ninguna jerarquía ni ninguna estructura que decida para el movimiento. Las asambleas tienen lugar en ese terreno que ha sido comprado por activistas y que se ha convertido en el centro operativo, digamos, del movimiento No Mouse. Además de eso, el movimiento se estructura, digamos, hacia adentro, de manera difusa, en el sentido que se han creado muchos comitatos, comitatos locales, ¿sí? Muchos comités locales que se reparten por territorialmente, en el sentido que en cada pueblo, en cada ciudad, donde hay personas que quieren trabajar el tema del MOUS, se han ido creando asambleas y comités, y cada uno de esos comités pues lleva a cabo su labor de manera más o menos independiente. Luego, cada dos semanas hay una asamblea general donde todos los comités locales se reúnen en el Fort Apache, en el terreno, para tomar las decisiones más importantes que tengan que ver con todo el movimiento. Como siempre vemos el intento de representación del movimiento por parte de fuerzas políticas tradicionales y demás organizaciones políticas, como pueden ser grandes sindicatos. Además, sale aún más claro en una región como Sicilia, que no tiene una gran tradición de, digamos, política asamblearia según ese nuevo modelo. Y entonces, pues, una de las labores, uno de los roles más importantes y por lo que tengo entendido un poco desgastantes también por parte de los activistas, es el de vigilar que, pues, exponentes políticos o demás personas liberados, sindicales, pues no acaben comiéndose el movimiento o no acaben llevándolo por caminos que simplemente el movimiento no quiere emprender. Pues eso. Claro, imagino que es bastante difícil sacar adelante las propuestas de acciones directas o las formas de reivindicar de resistencia cuando hay una diversidad tan grande en las posturas políticas y en la forma de hacer política, sobre todo, ¿no? Imagino que, o sea, que nos encontramos aquí casos similares, ya no en la acampada, sino pues en otro tipo de luchas también, sobre todo de la tierra, que son unas luchas que atraviesan tanto a tantos sectores de la población. Precisamente te quería preguntar ahora por eso, de qué manera el NOMOS está mostrando resistencia, está realizando acciones, manifestaciones, cómo está visibilizando este rechazo a la base militar de Mous, porque por ejemplo leíamos que en enero había habido cargas policiales por resistencias de la población a que entraran las máquinas a trabajar, luego en abril había habido acciones de desobediencia, que si nos puede contar un poco cómo ha sido cómo se visibiliza y se materializa esta resistencia. Partendo dalla considerazione che è difficile tenere assieme tante anime, è difficile tenerle assieme da un punto di vista politico-teorico, è ancora più difficile mantenerle assieme poi dal punto di vista pratico, quando c'è da decidere che azioni portare avanti e come visibilizzare la protesta. Volevamo passare appunto a questo altro punto. Ci racconti un po' come a livello a livello di proteste, a livello di visibilizzazione del conflitto e della questione, come si è evoluto il movimento dalle cariche di gennaio fino agli fatti più recenti? Sì, allora, la domanda è bella e insomma la risposta è anche semplice, nel senso che è un movimento con una grande composizione, ha anche diversi, diciamo, diversi tipi di azione che può andare a fare. È una questione con cui tutti i giorni ci siamo costretti a confrontarci, perché tutti i giorni c'è da decidere qualcosa e tutti i giorni c'è da mettere insieme tutti quanti. Da questo punto di vista, il movimento ha fatto dei grossi passi avanti su due fronti. Il primo è stato quello che si è riusciti a fare passare il messaggio che qualsiasi azione venga fatta, che sia un singolo, che sia un gruppo, è comunque un bene per il movimento. Quindi un'azione diretta o una qualsiasi altra azione non va criminalizzata mai, ma il movimento deve sempre supportare, diciamo, tutti i propri attivisti. Un'altra cosa però è anche, diciamo, da un punto di vista storico, come sono andate le cose, nel senso che cariche che ci sono state a gennaio sono state delle cariche che vedevano ancora un movimento che non sapeva con cosa si andava a confrontare. Poi pian piano con dei blocchi che in alcuni periodi sono diventati anche quotidiani, si è riusciti a come dire, scusate, mi senti? Sì, vai pure. Perché si era bloccato il computer? Okay. No, qui perfettamente. Ok, con dei blocchi che sono stati a un certo punto anche quotidiani, si è riusciti a comprendere, diciamo, l'entità anche del nemico, e lì capire che andavano fatti dei passi avanti. Le azioni più concrete sono state questi blocchi dell'entrata, perché sostanzialmente, essendo il presidio sull'unica strada che dà all'entrata agli operai, ai militari, alla base, è possibile fare continuamente dei blocchi. I blocchi che, una volta diciamo fatti, devono essere diciamo repressi dalla polizia, e questo è un processo che diciamo fa prendere consapevolezza alle persone della distanza che c'è tra le istituzioni e poi la realtà delle cose e i problemi. Un'altra cosa molto importante da dire è che come dire, non è facile comprendere. Diciamo che ognuno ha insito, diciamo, per la sua cultura politica delle pratiche, e allora si è lasciato abbastanza libertà nel potersi esprimere. In questo voglio dire che c'è chi, come il Comitato delle Mamme, che è un nodo essenziale di questo movimento, è un comitato di molte mamme del paese vicino che si oppongono alla base. Diciamo, il Comitato delle Mamme fa azioni che alcune sono, come per esempio, delle preghiere in piazza, ma da questo si passa poi a diciamo alcuni esponenti che vanno a fare delle denunce più istituzionali, e fino ad arrivare ad azioni di sabotaggio, come può essere creare delle barricate lungo la strada, tagliare le reti, fino ad arrivare poi all'azione che è stata fatta dai quattro attivisti in aprile, di entrare dentro la base e salire sopra le antenne. Quindi sostanzialmente, da questo punto di vista, il nodo essenziale è che si lascia abbastanza libertà di azione, perché si è riusciti a comprendere che ogni azione può essere utile al movimento. Grazie. Pues Fabrizio nos dice que la respuesta a las preguntas es cómo mantener juntas diferentes almas y ser efectivos a la hora de la acción es bastante simple y desprende de la toma de conciencia de que si hay diferentes almas políticas y biográficas dentro del movimiento, pues hay que dejar libertad de acción. Y hay que dejar libertad de acción en el sentido de entender que cualquier acción se quiera llevar a cabo, sea un rezo colectivo en la plaza del pueblo, o sea subirse a las antenas, entrar en el área de obra y subirse a las antenas, pues cualquiera de esas acciones es un bien para el movimiento y ninguna de esas lo puede perjudicar. A nivel más histórico, pues el movimiento salta a las crónicas en enero, cuando cuando la policía carga unas concentraciones que se habían convocado delante de la base, y en ese momento pues el movimiento era aún muy maduro, acaba de nacer, no estaba siquiera muy estructurado. Y esas cargas policiales fueron el primer choque, tanto físico como psicológico, para los activistas. Desde ahí se aprovechó el hecho que el fuerte de los activistas queda justo en la única carretera de acceso al área de obras, y se empezaron a llevar a cabo unos cortes de carreteras para impedir que las maquinarias y las demás, y los obreros y demás tal, pudieran entrar en el área y efectivamente llevar a cabo las obras. Esos cortes de carreteras llegaron a hacerse cotidianos, eso entre febrero y marzo, y claro, pues esos cortes llamaron a la represión bastante brutal y por parte de la policía, y pues Fabrizio subraya cómo esa represión y esa lucha del día a día, ese subir la conflictividad entre los actores, fue lo que hizo finalmente madurar el movimiento y fue lo que les hizo posible comprender, entender del todo la entidad del enemigo, porque acordémonos que estamos hablando de un movimiento que se está metiendo con Estado, mafia y Estados Unidos de América. Y eso, otra vez, subrayar la libertad que se concede a la hora de la práctica y sin ningún cierre a priori de las posibilidades de acción. Pues tomaremos de Fabrizio casi la cita literal, porque creo que es un ejemplo, ¿no? La lucha de No Mouse, es casi un ejemplo en este sentido de base, que vuelve a demostrar cómo, en el caso de la lucha del Not Out, cómo sí que se pueden conjugar distintas formas de entender la lucha si dejas libertad de acción, ¿no? Si dejas que cada uno lleve a cabo su lucha sin marcar luego culpables y bueno, y estas dinámicas un poco conflictivas que nos encontramos en otro tipo de luchas y que ahora mismo, no sé, creo que sirve bastante, ¿no?, para crear este marco de que como una resistencia real solo se puede llevar a cabo cuando están unida la contraparte, ¿no?, por así decirlo. Bueno, esto era un apunte así que me ha surgido al escuchar las palabras de Fabrizio, que son bastante esperanzadoras. Como ya te estamos robando mucho tiempo, que ya vamos aquí casi 50 minutos que te tenemos al otro lado de la pantalla escuchándonos, te quería preguntar por último lugar, bueno, antes de hacerte esta pregunta, para que no se nos vaya la audiencia, quiero preguntarte por la acampada y por lo que está programado para este verano. ¿En cosa consistirá la acampada? ¿En cosa consistirá el camping del verano, de agosto, perdón, scusami, el camping de agosto, come, qué actividades son previstas, qué tipo de... Raccontaci un po'. Ok, allora, intanto dico, volevo Sì, volevo sottolineare che appunto l'accampamento è un nodo strategico per il fatto che sta sull'entrata della base. Il campeggio di agosto sarà un campeggio che prima di tutto vorrà far arrivare più persone possibili da tutta Italia e anche da più parti del mondo per far crescere il movimento, soprattutto sui contenuti, perché è importante dire che il movimento No Muos sin da subito non ha voluto essere un movimento diciamo con una visione ristretta, ma che se cerca sempre di ampliare il raggio delle sue istanze, delle sue azioni. È importante dire che il movimento No Muos sta facendo nascere anche altre lotte su altri temi in Sicilia. Quindi, primo obiettivo del camping è creare questo confronto tra realtà che vengono da diverse parti e che fanno parte di diversi tipi di lotta per fare crescere il movimento. In secondo luogo, ovviamente, come abbiamo già potuto diciamo mettere in pratica in Val di Susa, sappiamo che l'estate è un momento propizio per diciamo radunare attivisti che possibilmente nel resto dell'anno sono diciamo occupati nelle proprie città o nelle proprie lotte, e diciamo la forza di attivisti con più esperienza può fare sì che anche a livello di conflitto si possa fare un passo in avanti e quindi fare un passo in avanti nelle azioni che si vanno a creare quotidianamente contro la base. Quindi questi sono i due grandi temi, sostanzialmente i due grandi obiettivi: far crescere e maturare il movimento sui contenuti e sulle pratiche. Okay. Pues los dos macro objetivos de la acampada planeada por ese agosto son básicamente, por un lado, lo de reunir activistas de diferentes que provienen de diferentes luchas y de diferentes realidades para poder crecer en el nivel contenutístico, en el nivel del discurso, en el sentido que el Nomous siempre ha intentado no cerrarse en su propio tema específico. O sea, evidentemente, es un movimiento que se plantea la oposición a la construcción de la base satelital, pero no se quiere quedar ahí, quiere ir un poco más allá y quiere encontrar complicidades y sinergias con otras luchas similares que ya, de hecho, se están desprendiendo, tomando el Nomous como ejemplo, como de hecho a su vez no, el Nomous hizo tomando ejemplo de la Val di Susa, de la cuestión del tren de alta velocidad. Entonces, por un lado, intentar pues agrupar temáticas, agrupar problemas y cuestiones y intentar compartir un discurso de oposición que pueda valer para diferentes situaciones concretas. Por otro lado, como ya se vio con las acampadas veraniegas que se llevan a cabo en Val di Susa, en el valle donde está prevista la construcción del tren de alta velocidad desde hace unos años, pues los activistas es que se han dado cuenta que el verano es un buen momento para reunir activistas que durante el año pues están con su curro, con sus estudios, con sus luchas y que eso les impide poder contactar, o sea, conectar y poder físicamente moverse y para escuchar más historias y buscar complicidades, pues el verano es el momento más apropiado y eso de cara a aumentar pues la conflictividad callejera, ya que pues supuestamente activistas con experiencia y con ganas se pueden concentrar y pueden llevar a cabo pues acciones más contundentes y efectivas posiblemente. Se vuoi ti annuncio già le date, Ah, così diciamo sì. Allora, ci saranno dal 9 al 14 luglio, sarà una settimana basata sostanzialmente sull'antimilitarismo, anche perché facendo riferimento al trentennale di Comiso si farà un discorso proprio prettamente sul discorso antimilitarista. Dal 9 al 14 luglio, dal 5 all'11 agosto sarà diciamo questo raduno di realtà che è provenienti da più parti possibili e che ha come obiettivo confrontarsi su tanti temi e quindi allargare le vedute. Perfetto, pues las fechas previstas son de 9 a 14 de julio, cuando tendrá lugar una semana temática de antimilitarismo, aprovechando el trentenal de otra lucha antimilitarista que se llevó a cabo en Sicilia. Mientras la acampada en sí, de la que estamos hablando hace un rato, será del 5 al 11 de agosto en el presidio, en el fuerte de los Nomous en Niscemi. Bueno, pues scusami, vorrei sottolineare il fatto che comunque cioè è possibile sempre andare a campeggiare nel presidio, perché tutto l'anno, 355 giorni l'anno, sono presenti e si turnano gli attivisti lì, quindi non è mai stato lasciato da quando è stato comprato l'accampamento. Vale, vale, que Fabrizio quiere subrayar que el presidio, el fuerte, que es el centro operativo de los activistas, siempre es un presidio permanente donde siempre hay gente y que entonces siempre todos los activistas interesados en ver de primera mano la realidad del movimiento No Mouse, pues están invitados a pasarse y a acampar y a quedarse con los otros activistas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, porque creo que realmente una acampada de este calibre, de estas características, puede ayudar a, como decía Fabrizio, ¿no?, a reunir también distintas luchas similares y a crear redes y apoyarse entre ellas, ¿no? Está el caso ahora mismo en Francia del ZAD, de la propuesta de aeropuerto que está ocupada. En España ahora mismo, en la zona del norte, estamos con el fracking, que bueno, en realidad está afectando a todo el país. En Portugal también se están encontrando ahora con minas a cielo abierto que van a acabar con parte de parques naturales, y ahora realmente el caso de Sicilia, nos encontramos que se está poniendo sobre la mesa el ejército en las calles, ¿no?, el ejército al lado de casa, y un tipo de guerra que es imprescindible frenar, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, para no desviarnos de nuevo y entrar en debate, y para terminar, te quería preguntar si crees que este tipo de luchas que atraviesan tanto y que cala el hecho de respetar que haya distintos tipos de lucha, distintas perspectivas, va a ayudar a que el movimiento asambleario y la lucha social desde un punto de vista horizontal y autogestionado, un punto de vista más anarquista, por así decirlo, tenga más auge, ya no sé si a nivel italiano, pero sí a nivel siciliano, si se está palpando este cambio político. Per chiudere, un'ultima domanda. Tu riesci a vedere, credi che si sta facendo palpabile la trasformazione sociale nel senso che questo tipo di lotta così trasversale come può essere quella del No Mouse è una buona scusa, un buon esempio per fare in modo che si possa espandere e si possano creare altri tipi di organizzazioni e di lotte sul territorio che adottino questo modello assembleario, orizzontale, alla fine dei conti anarchico, possiamo dire? Sì, guarda, sicuramente sì, la risposta. Intanto, prima di tutto, come già detto, il movimento cerca di ampliare sempre lo sguardo, e quindi comunque le persone che fanno parte del movimento No Mouse sempre di più stanno aprendo, diciamo, gli occhi su tantissime cose, e anche nelle pratiche si sta diffondendo il fatto che in molte città della Sicilia, dove non ci fosse prima nulla, nessuna organizzazione politica se non magari quei storici partiti, il fatto che in quasi tutte le città siano nate dei comitati, non MUOS, fa palesemente diffondere il metodo orizzontale assembleare e fa nascere cultura politica in tante piccole località dove prima non c'era, quindi la diffusione è sicuramente palese. C'è anche da dire che il movimento No MUOS, siccome è ovviamente composto da persone e le persone portano ognuno le proprie anche lotte locali, sta già progettando di ampliarsi e per esempio prendere parte a e creare una nuova battaglia, che è quella che vorremmo fare contro delle trivellazioni che verranno fatte vicino la parte occidentale della Sicilia, quindi alla ricerca del petrolio. Quindi sicuramente c'è dal punto di vista della diffusione delle pratiche assembleari, collettive, quindi cultura politica, una grande diffusione, ma anche un allargamento degli orizzonti delle persone e del movimento. In Italia, secondo me, in questo momento abbiamo capito una cosa, che lotte più prettamente teorico-politiche non ci si riesce a mettere d'accordo e a creare dei grossi movimenti, mentre le lotte territoriali da un bel po' di anni in Italia hanno una grande spessore e una grande forza, e sostanzialmente in questo momento sono le lotte territoriali in Italia che portano avanti i movimenti. Cioè sono le lotte territoriali che danno forza ai movimenti, e l'unità che stiamo cercando di dare a queste lotte territoriali può essere un nuovo fronte da cui può nascere veramente qualcosa di stabile, concreto e molto più generale. Pues sí, según Fabrizio, la contestación es sí. Se ve, por ejemplo, en una tierra árida como área de cultura política asamblearista y horizontal como es Sicilia, ya se ve que en casi todas las principales ciudades y en muchos pueblos se han creado comités que están trabajando, pues, según ese nuevo modelo, partiendo básicamente de la nada, o sea, partiendo de pues alguna... O sea, estamos hablando de sitios donde, pues, como mucho existían algunas organizaciones políticas izquierdosas, izquierdistas, más tradicionales, pero que no apostaban por ese modelo ni tenían gran fuerza y gran relevancia social. Otra vez, Fabrizio quiere subrayar cómo el NoMouse no se quiere cerrar en sí mismo, se plantea complicidades, se plantea sinergias con otros movimientos, y de hecho nos adelanta que el próximo objetivo será una nueva lucha que se quiere emprender, pues, en cuanto sea posible y en cuanto sea necesario, contra un proyecto de fracking que tendrá lugar en la parte oriental de Sicilia. Y como cierre, como reflexión final, pues Fabrizio nos quiere dejar la idea que en Italia ya nos hemos enterado que nos quedamos parados y peleando cuando a la hora de plantear luchas más políticas y generales, mientras en cambio llevamos años y años viendo cómo las luchas territoriales en oposición a diferentes proyectos son, pues, el verdadero motor y lo que da energía a los demás movimientos y a las demás formas de oposición social. Y quizás, pues, hay que empezar por esa idea y reconocer el valor de semilla de esas luchas. Pues agradecemos enormemente esta reflexión, Fabrizio. Y bueno, por último ya solo preguntarte si vas a dar una vuelta por Madrid o por el estado, por si hay interesados o interesadas que nos están escuchando y que les apetece quizá acercarse a una charla donde poder profundizar un poco más, aunque la verdad es que hemos dado una entrevista bien completita, pero quizá quieran acercarse a alguna charla, que tengo entendido que el próximo domingo no, al siguiente, quizá ahí en Madrid algo preparado. Que nonostante la tua spiegazione sia stata abbastanza parecchio esaustiva, nel caso ci sia qualche ascoltatore che vuole passare agli incontri che state facendo in giro per l'Europa, passerete per la Spagna prossimamente? Avete qualche incontro già pianificato? Sì, allora partire da praticamente dalla fine di questa settimana. Il 23, domenica 23, sarò a Salamanca e poi la settimana dopo saranno tutti appuntamenti a Madrid. Precisamente, aspetta un attimo che ti dico i posti che ce li ho qui, che sono il giorno 27, giovedì, alle 7:30 l'ESA Salamanchesa, il venerdì 28 accesso alla Casica e poi la domenica al Coco, la Condenagda. Ah, Coco, sì. Ok. A posto? Finito? Sì, questo sono. Ok. Sì, pues effettivamente la caravana No Mouse passerà por el Estado Español el 23, ese domingo serán en Salamanca a dar una charla y luego se quedarán la semana siguiente por Madrid, en concreto el jueves 27 a las 7:30 estarán en la Salamanquesa, el viernes 28 habrá una charla en la Casica y cerrarán su tour el domingo 30 en la Coco. Diciamo che se chi vuole partecipare ovviamente è ben accetto, perché oltre a, sicuramente, diciamo, sarà un po' più esaustiva di questo, con video e immagini a supporto, e saranno in alcuni di questi appuntamenti delle scene, dei concerti che contribuiranno a finanziare il movimento che sta sostenendo le spese per l'acquisto del terreno che ha dovuto comprare e per tutte le procedure legali che le cause messe in campo dalla repressione stanno facendo al movimento. Pues sí, cada evento será acompañado por proyección de vídeos, de fotos, en algunos casos habrá también algunos conciertos o senadores o comedores populares, también para recaudar pasta, por un lado para cubrir los gastos de la compra de la finca donde está el centro operativo del movimiento No Mouse, y por otro lado para enfrentar pues las expensas que la represión, como por todos lados, lleva consigo. Bueno, pues creo que por aquí nada más. Fabricio, solo agradecerte haber estado esta tarde con nosotras aquí en Vórtices, en Radio ELA. Gracias mille. Grazie mille a voi, è stato un piacere. Ci vediamo allora lì. Sulle barricate. Sì, ci vediamo lì. Assolutamente. Bueno, por último, pedirte que te mantengas en contacto con nosotras para... en verano, por ejemplo, poder hacer conexiones, ya que creo que económicamente va a ser un poco difícil que nos acerquemos a Sicilia, pero se intentará. Ci proviamo a fare un'altra diretta dalla Sicilia quest'estate, quando facciamo quando il campeggio. È possibile, anzi, ditemi voi quando e si può organizzare sin da subito. Perfetto, ne parliamo adesso a microfoni spenti.